9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari radioascoltatori, buon giovedì 3 marzo, oggi è una puntata dedicata all'energia. Al Consiglio dei Ministri avete letto in questi giorni, per chi segue con attenzione le cronache che riguardano le vicende energetiche, che nel governo si era aperto un confronto tra il Ministro dello Sviluppo Paolo Romani e il Ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo sulla questione di rimetter mano agli incentivi per le energie rinnovabili, che sapete nella nostra legislazione sono molto forti. C'è un primo blocco storico di incentivi molto discusso, ai quali chi vi parla è stato molto avverso, naturalmente senza portare a casa niente, come una classica tradizione del minoritario tra minoritari, i CIP 6, che è il blocco che dal 1992 consentito ricchi, pingui, arci multiplurimiliardari per decine di miliardi di euro incentivi che sono gravati in bolletta sulle energie rinnovabili e assimilate, e in queste assimilate si è creata una greppia per gli allora non ancora concorrenti dell'Enel per spazzarci in realtà tecnologie, impianti da combustibili fossili del tutto ordinari, quindi una vera e propria, io la chiamo una truffa di Stato per non fare concorrenza, perdonatemi, CIP 6 è stata questa roba qua. Però poi dopo abbiamo invece cambiato marcia negli ultimi anni, perché poi ci sono gli obiettivi che sono diventati impegnativi sul mix energetico, quelli che si è data l'Europa, e quindi qui altro blocco di incentivi che ha consentito per esempio in questi anni un notevole librarsi della quota di potenza installata, poi di energia prodotta un altro paio di maniche, ma di potenza installata per esempio nel solare, nel fotovoltaico e nell'eolico, tanto che alcuni hanno iniziato a guardare con più attenzione il fenomeno della devoluzione di aree agricole crescenti a questo tipo di impianto, la disparità crescente che in alcune regioni si creava tra domande di allacciamento per realizzazione di impianti e produzione reale poi di energia elettrica, il famoso articolo che oggi trovate ancora una volta richiamato sul Corriere della Sera, un articolo di Sergio Rizzo di Mucchetti, che ha detto richiesta per 130.000 megawatt, più di tutte le centrali costruite in Italia in 100 anni, e si è iniziato a guardare con attenzione a quanto di fenomeno non troppo trasparente c'era in tutto questo. Dall'altra parte, come è ovvio, le imprese, il crescere dell'impresa, degli addetti, della ricerca, dell'innovazione, che è fondamentale nel campo delle energie rinnovabili, ha tirato sulle antenne, perché ha detto non è che adesso ci volete accomunare a chi semplicemente specula sulla destinazione d'uso delle aree o semplicemente spaccia per impianti nuovi quelli che non vengono mai allacciati. Grande problema di fronte al quale si è innestato poi anche naturalmente il vincolo di bilancio, è perché proprio Giulio Tremonti, sentite qualche tempo fa che cosa disse, e credo che questo fosse all'origine della richiesta del ministro Romani di dare una sforbiciata agli incentivi, a cui si è opposta la Prestigiacomo, prima di vedere due cose: primo, come stanno le cose davvero sentendo addetti ai lavori; secondo, che cosa uscirà dal Consiglio dei Ministri stamattina. Riascoltiamo le parole di Giulio Tremonti. E mentre tutti gli altri paesi stanno investendo sul nucleare, la Germania avrebbe dovuto interrompere, ce l'ha detto, interrompere nel 2040, è come nutrirsi mangiando caviale, non ce lo possiamo permettere, e non crediamo alle balle di quelli che ti dicono dei mulini a vento, descrivono un mondo un po' tipo il mulino bianco, con l'eolico. Vi siete chiesti perché in Italia non ci sono mai stati mulini a vento? Ci sarà una ragione, se nei secoli non li abbiamo mai avuti. E in realtà è stato inventato il grande business dell'eolico, che è uno degli affari di corruzione più colossali, ai quali francamente la quota di maggioranza non appartiene a noi. O naturalmente voi direte, beh no, in alcune regioni nel sud c'è, è vero, il ministro Giulio Tremonti secondo me ha dato giudizi così riprese, questo è un discorso politico, tagliati un po' con l'accetta, io la penso un po' come lui sul nucleare. Devo dire che chi ha dubbi sull'eolico può andare a vedere tutti i rapporti internazionali che fanno la graduatoria comparata, al di là della potenza installata, di quanto poi energia si produca in media, cioè significa quante ore l'anno, quanti giorni l'anno risultano attivi le pale eoliche nei diversi paesi. Noi diciamo, rispetto a una media europea di 2000, 2200, 2300, 2400 fino a 2800 e alcune punte 3000 ore l'anno, che sono appunto dipendono dalla ventosità, noi siamo 1300, 1200. Ecco, noi siamo stabilmente un terzo meno della media, quindi in qualche misura la battuta del ministro è vera, ma al di là della battuta del ministro sulle pale eoliche e al di là del fatto, ve lo ricordo, che a parità di potenza installata, con la differenza di quella nucleare e continua, per avere 1600 megawatt serve un'area più o meno di 250, massimo 300 metri quadrati, per avere lo stesso con il fotovoltaico servono 5 km quadrati, per intenderci, per averlo con l'eolico servono 25x35 chilometri come area, ecco. Ma al di là di questo, che comunque va richiamato, tra i punti che vi erano oggi vi sono oggi all'attenzione del governo del Consiglio dei Ministri, c'erano appunto dei limiti da rispettare, dei limiti nuovi per così dire. Ce n'era la barriera dimensionale degli impianti fotovoltaici, 5 megawatt, al di sopra della quale per accedere agli incentivi sarebbe necessaria una gara, come avviene in altri paesi, per esempio in Francia, e come da noi non si era deciso di fare. E poi c'era il famoso vincolo che avete sentito in questi giorni anche nei giornali radio di Radio 24, che se ne sono sempre occupati, richiamato spesso, e cioè il famoso vincolo d'obiettivo sul tetto degli 8000 megawatt per gli incentivi agli impianti fotovoltaici, tetto connesso agli obiettivi europei e tetto sul quale era stato chiesto il ripensamento. Vi sarebbe un'ipotesi di accordo oggi, su cui si è stata superata insomma l'imposizione un po' più dura di Romani e difensiva della Prestigiacomo, ma al di là delle mie parole iniziali andiamo subito a sentire gli addetti ai lavori, per così dire, come la pensano. E abbiamo con noi Carlo Stagnaro, che è direttore di ricerca e istituti dell'Istituto Bruno Leoni, che oggi firma tra l'altro anche un articolo sul Sole 24 Ore, lo trovate a pagina 16, cofirmato con uno che non la pensa come lui e ci dirà perché. Buongiorno Stagnaro. Buongiorno. E Roberto Longo, che è il presidente dell'APER, che è l'Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili. Buongiorno ingegner Longo. Buongiorno ingegner. Allora Stagnaro, se dovesse dire con più precisione perché lei oggi interviene difendendo gli incentivi, cosa ci direbbe? Direi che non difendo gli incentivi, ma critico il modo in cui vengono cambiati. Io sono tra quelli che da tempi non sospetti hanno detto e scritto che la politica di incentivazione adottata in Italia era troppo generosa. Parentesi, l'autorità ci dice che sono 5,7-5,8 miliardi quest'anno, che più di 3 fotovoltaico, parentesi. 5,7-5,8 miliardi, di cui più della metà fotovoltaico, che però contribuisce in minima parte non solo al totale dell'energia che noi consumiamo, ma addirittura al volume di elettricità generata da fonti rinnovabili. Io credo che gli incentivi siano stati concessi in passato in modo troppo generoso, che questa generosità avesse un'unica, non dico giustificazione, ma spiegazione nel fatto che le procedure autorizzative amministrative in Italia sono particolarmente onerose, quindi se vogliamo installare una capacità importante di energia verde, obiettivo su cui io sono scettico, ma comunque dobbiamo tener conto del fatto che il nostro è un paese più rischioso dal punto di vista politico di altri. E però quello che scrivo è che nel momento in cui si decide di concedere un regime di incentivazione, è lecito cambiarlo, ma bisogna cambiarlo facendo salvo, da un lato, le promesse che sono state fatte, perché ci sono delle imprese che hanno investito su questo anziché su altro, e in questo paese anziché in paesi diversi, sulla base di una promessa che hanno ricevuto dallo Stato e che vedono saltare per aria il loro business plan. E questo è il primo punto. Il secondo punto, va cambiato in maniera tale che sia chiaro e stabile il nuovo regime di regole. Il caso più clamoroso era quello che lei ha citato e che pare sia in procinto di saltare sul tetto alla potenza fotovoltaica, non perché io sia contrario alla possibilità di istituire un tetto oltre il quale gli incentivi finiscono, ma perché per il modo in cui era definito nessuno era in grado di sapere, nessuno sarebbe in grado di sapere se il tetto è stato raggiunto o no, e quindi nessuno nel momento in cui investe sa se quell'investimento sarà remunerato oppure no. Cioè, per spiegare a chi è a casa e chi non ha presente di quale tetto stiamo parlando, si era deciso che il regime degli incentivi, che era stato anche rimodellato secondo una scala pluriennale, lo strumento qui si chiama conto energia ed è quello che consente alle imprese del ramo di capire qual è la redditività del capitale investito nei prossimi anni su questo settore, però si era detto, però gli incentivi, parliamoci chiaro, ci saranno fino a che non si raggiunge la soglia degli 8000 megawatt di potenza installata, poi ci si ferma, tranne che poi di fronte all'esplosione del settore e alcuni dicono, beh, praticamente ci siamo già arrivati, quindi bisognerebbe farli finire. C'è chi dice che siamo a 7400 7500, quindi di qui il problema che lei dice, non è che io posso annunciare una prospettiva pluriennale alle imprese e contemporaneamente poi mettere una soglia di potenza installata che abbiamo già raggiunto, che abbiamo già peggio ancora, non posso mettere una soglia di potenza installata che non sappiamo se abbiamo raggiunto, che non sappiamo se raggiungeremo. Però lei contemporaneamente dice che continuiamo a tenerli gli incentivi. Io dico continuiamo a tenerli per chi se li è aggiudicati, costruiamo un periodo di grazia, tra virgolette, per chi è nel limbo dell'autorizzazione e che ha avviato degli investimenti, si è impegnato a banche, eccetera. Dopodiché, se si sceglie una data certa, superata la quale gli incentivi calano, benissimo, si facciano calare gli incentivi e magari si pensi anche a riformare il sistema nel suo complesso, che oggi remunera le diverse fonti in misura diversificata, facendo convergere gli incentivi verso un incentivo unico o meglio ancora verso una carbon tax, quindi un disincentivo sul combustibile fossile, in maniera tale che le fonti rinnovabili competano tra di loro e si affermino nella misura in cui sono più competitive. In altre parole, distinguiamo l'obiettivo di politica ambientale, che è ridurre le emissioni, dall'obiettivo di politica industriale, che se c'è è far sviluppare l'industria fotovoltaica piuttosto che eolica, piuttosto che per le biomasse, ma visto che non c'è e cambia tutti gli anni, crea solo confusione, crea distorsioni e crea una situazione nella quale non si capisce bene in realtà dove si vuole arrivare e qualunque cosa la si fa in maniera inefficiente. Allora, richiamo anche a chi è interessato e segue queste tematiche l'intervista alla Stampa. Oggi c'è una pagina intera alla Stampa di Umberto Veronesi, senatore, presidente dell'Agenzia per la Sicurezza Nucleare, eletto da poco in mezzo a mille polemiche. Senza nucleare l'Italia muore. Chi è interessato approfondisca lì l'argomento pro nucleare. Sentiamo Roberto Longo. Io voglio solo informarvi poi che contavo di avere fin dall'inizio Stefano Saglia, che è sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico, lo stiamo cercando, vediamo. Saglia di solito è non solo competente ma molto disponibile, tentiamo di continuare a cercarlo. Intanto Roberto Longo, presidente dell'Associazione Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili, questo dibattito in cui improvvisamente si apprende in pochi giorni che una prospettiva su cui le imprese scommettono, improvvisamente tutto cambia, poi nell'ultimo minuto tutto cambia di nuovo, cosa vuol dire per chi investe e fa crescere impresa nel settore? Ma vuol dire che stiamo portando avanti gli stessi errori che abbiamo portato avanti nel passato. In Italia la scelta del puntare, diciamo, sulle rinnovabili è una scelta vecchia, è una scelta che è nata nel 1991 e da allora purtroppo si è andato cambiando obiettivi, normative, incentivazioni, criteri di mercato, criteri di registro e quant'altro, dando allo sviluppo di questa, da una parte settore industriale, dall'altra parte anche fonte di energia, un andamento veramente schizofrenico. Quindi diciamo, purtroppo il sistema ci ha abituato a questi cambiamenti, ma ci ha abituato nel senso che è stato penalizzato da questo tipo di scelte. con la differenza che in questo momento il nostro raggiungere un obiettivo al 2020 è un obiettivo europeo, quindi non stiamo parlando tanto di tetti, lei ha detto il tetto degli 8, stiamo parlando di obiettivi minimi, cioè non si è mai fissato un tetto di 8.000 megawatt al fotovoltaico, ha detto l'obiettivo minimo al 2020 è 8.000 megawatt, poi per motivi. No, no, il problema era la soglia alla quale riservare il venir meno progressivo degli incentivi. Non erano gli 8.000, erano 3.000 megawatt in più rispetto a quelli che erano stati finanziati, esatto, col precedente conto energia. Purtroppo c'è molta confusione in questo settore. Il discorso di fondo è questo: noi abbiamo fatto una scelta in Italia, come diciamo con gli altri paesi europei, di liberalizzare il settore dell'energia, quindi applicare le leggi di mercato anche al settore dell'energia. Applicare le leggi di mercato anche a quello che è lo sviluppo delle fonti rinnovabili che, lo sappiamo, non sono competitive in termini economici con le fonti convenzionali se non si tiene conto di quelli che sono i costi indiretti, i costi ambientali. Quindi diciamo tutto il mondo, non solo l'Italia, incentiva. Il discorso di fondo è capire come le incentiva, nel senso che l'incentivazione è da una parte legata a quelli che sono i costi delle tecnologie, e i costi delle tecnologie variano nel tempo, come tutte le tecnologie c'è una curva di apprendimento, c'è un discorso di scala e quindi cambiano nel tempo, quindi di sicuro gli incentivi devono tener conto di questa diminuzione del tempo. Dall'altra c'è anche una peculiarità del paese in cui, per cui fare delle fonti rinnovabili in Italia è un costo diverso che non in Germania, che non in Francia, che non in Spagna. Ecco, purtroppo, come succede in Italia, oggi l'incentivazione non è stata vissuta come il giusto valutare di volta in volta quale fosse questo differenziale economico che doveva da una parte coprire i costi di investimento e dall'altra incentivare, ma semplicemente con la logica dell'erogazione di un premio, quindi da un premio, ops, ho sbagliato, è troppo alto, allora marcio indietro, lo riduco a metà, anzi dico non lo do più. Allora, dietro il mondo rinnovabile c'è un'industria che sta crescendo, un'industria anche italiana, in questo momento, per assurdo che sia, il mondo del rinnovabile è l'unico settore in crescita in Italia, non a caso le banche sono felicissime di poter quantomeno investire in questo settore. Ecco, a questo punto si sta mettendo in crisi con questa erraticità, con questo comportamento schizofrenico, si sta mettendo in crisi un settore che stava crescendo, che era partito. Ora, qual è la risposta? La risposta è non l'ha ordinato nessuno, sì, l'Europa l'ha imposto di raggiungere gli obiettivi di rinnovabili al 2020, ma se questa diventa parte di una politica energetica del paese, come è diventata parte il nucleare, vogliamo fare un disegno omogeneo, costante nel tempo, affidabile nel tempo, che porti a raggiungere questi risultati con dei costi accettati? Cioè, moltiplicare l'incentivo per i kilowatt installati è semplice, l'abbiamo fatto tutti. Come mai non è stato fatto prima? Come ci accorgiamo adesso che costava tanto? Questo è quello che non è accettabile, il cambiare dopo 4 mesi una legge che è stata fatta a settembre e sulla quale si erano fatti degli investimenti, sono stati fatti degli investimenti industriali, investimenti di ricerca, investimenti di autorizzazione, investimenti di finanziamenti ottenuti. Posso farle una domanda che vedo dalle domande che arrivano? Perché alcuni dicono, no, un momento, se uno si rende conto che una legge fatta anche 4 settimane, 4 mesi prima, ma vale anche 4 anni prima, quando ci si rende conto che magari sta producendo degli effetti imprevisti e che vengono valutati sbagliati, meglio fermarsi e cambiarla piuttosto che no. Questa osservazione di buon senso naturalmente viene da chi non conosce tecnicamente come era modificato il conto energia, la necessità di tenere un orizzonte pluriennale per chi investe, soprattutto stante le caratteristiche di questo settore, però è un'obiezione, ammettiamolo, che può avere un buon senso. La domanda che le faccio io aggiuntiva è: nel modificarsi a breve delle opinioni, e vedremo oggi cosa poi uscirà in concreto dal Consiglio dei Ministri, quello che lei ha visto è stata una preoccupazione anche comprensibile, per esempio rispetto a speculazioni, utilizzo del territorio, impatto paesaggistico eccetera, che prima non c'era, singolare perché poi viene da chi non è il Ministro dell'Ambiente, se fosse così, oppure semplicemente il fatto che è sopravvenuta in questa unità di tempo così ristretta si è rifatto il conto e si dice, beh, ma insomma, perché non risparmiare un po' di questi soldi, secondo lei? Allora, premesso che è chiaro che ogni paese ha il diritto di farsi le leggi e di cambiare i regolamenti, altrettanto è vero che esiste il principio del legittimo affidamento, per cui quando cambio un qualcosa do il tempo perché ci sia dei questi per recuperare gli investimenti fatti. Non a caso nel momento in cui abbiamo chiuso il nucleare abbiamo riconosciuto gli stranded cost all'Enel. Quindi diciamo, diritto dello Stato di cambiare, diritto dell'investitore di saperlo per tempo e di recuperare gli investimenti fatti. Detto questo, la logica, io non credo che ci siano state nel nostro settore delle speculazioni, cioè di sicuro non c'è stata la presenza mafiosa, come si è detto, non più di quanto non esista una presenza in tutto ciò che è soggetto a un'autorizzazione amministrativa, purtroppo in Italia molto è soggetto a un'autorizzazione amministrativa, non c'è stata una speculazione, è stato un settore che ha ricevuto degli incentivi particolarmente interessanti e quindi in un momento di crisi l'investimento si è concentrato su questo settore. Quello che noi chiamiamo speculazione è semplicemente questo, che in un momento di crisi il capitale va verso dove il ritorno dell'investimento è più interessante. Allora il discorso qual è? È modificare con la giusta gradualità queste incentivazioni in modo tale da permettere il raggiungimento degli obiettivi, di salvaguardare la crescita dell'impresa che si è creata intorno a questa tecnologia, facendo in modo che i rendimenti siano tali da continuare a trarre gli investimenti evitando che si creino comunque delle sacche di eccessivo profitto. E questo è importante anche per quanto riguarda il territorio. Si è scelto proprio il discorso di Liberista di indirizzare la crescita delle rinnovabili utilizzando appunto la leva tariffaria, con una logica di mercato. Io incentivo di più quello che voglio promuovere meglio. Evidentemente si è sbagliato qualcosa, perché se arriviamo a dire in questo momento che stiamo utilizzando troppo territorio perché facciamo troppi impianti a terra, evidentemente questa calibrare gli incentivi sugli obiettivi non ha funzionato. Se vogliamo modificare e quindi dire vogliamo fare del fotovoltaico ma lo vogliamo non a terra, lo vogliamo sui tetti, lo vogliamo integrato, modificando le incentivazioni faremo in modo che investire a terra convenga di meno che investire sui tetti, a questo punto non faremo più impianti a terra e li faremo integrati, a meno che non si voglia abbandonare la logica liberista e si entri nella pianificazione che non ci piace. Lei ammetterà, adesso io capisco, però lei ammetterà che in un sistema che è tutto fatto con tariffe e incentivi, sentirsi dire che questo è il metodo liberista rispetto all'ulteriore dirigismo di distinguere ancor più discrezionalmente che tipo di impianti, che tagli eccetera, sono d'accordo. Naturalmente sappiamo che siamo in un ambito, le rinnovabili, che è vero per gli start-up, il decollo, l'ammortamento degli investimenti tecnologici, pensiamo a quanto costa meno oggi la tecnologia del fotovoltaico rispetto agli inizi, però insomma è vero che c'è necessità di un intervento pubblico. Naturalmente qui stiamo parlando di gradi diversi di dirigismo e di discrezionalità più che di liberismo, questo almeno dal mio punto di vista. Pubblicità. Io trovo che purtroppo ostacolino anche un dibattito serio, più fondato poi su cifre, valutazioni oggettive eccetera, un bias, che è un difetto di fondo poi del nostro dibattito pubblico, cioè quello di dover scontare una elevatissima, molto più estesa che in altri paesi, chiamiamola come è giusto, ignoranza di tipo scientifico-tecnologico, che ci fa fare spesso confusione, come ci diceva Roberto Longo, che non fa apprezzare per esempio il fatto che tecnologie di nicchia, quando devono diventare di vasta scala, non è che basta semplicemente insistere, no? Non è così. Se tutti volessero oggi l'automobile con la propulsione solo elettrica, non ci sarebbe litio e lantanio per fare le batterie per tutti, mi è stato giustamente fatto osservare. E lo stesso vale per esempio per il tipo di impianti, si può fare fotovoltaico di potenza e non solo ottimizzando integrato negli edifici, siano essi di tipo commerciale o residenziale, e naturalmente questo già innalzerebbe però tantissimo il bilancio di ecocompatibilità e di ecoefficienza del patrimonio immobiliare italiano, che in questo è terribilmente arretrato. E è chiaro che chi pensa al fotovoltaico di potenza, secondo me, tende a commettere un grave errore. Però detto tutto questo, sentiamo innanzitutto qualche telefonata da voi, poi si è aggiunto un altro ospite e torniamo a sentire le loro opinioni. Abbiamo Alessandro che ci chiama da Napoli. Prego Alessandro. Buongiorno. Dica. Salve. Come dicevo alla signorina che mi ha risposto, io faccio funzione di energy manager per un'azienda napoletana che produce generatori microeolici. Siamo nel ramo da 4 anni. Quando abbiamo cominciato gli incentivi non esistevano ancora. Quando dice micro ci dà un ordine di grandezza, potenza? Fino a un massimo di turbine di 30 kW, perché sì, sono ad asse verticale. Abbiamo un progetto, un brevetto italiano, e abbiamo tentato di fare industria qui in Italia, particolarmente al sud. Quando abbiamo cominciato avevamo le prime difficoltà perché gli incentivi non esistevano ancora. Sì. Nel 2008 poi la finanziaria ha stabilito che ci dovessero essere degli incentivi anche per il microeolico. Sì. Dopodiché abbiamo aspettato ancora un anno affinché questi incentivi avessero i decreti attuativi. Sì. Quindi noi abbiamo affrontato la clientela sul mercato perché non volevamo fare solo, diciamo. Voi da quando avete iniziato a commercializzare? In che anno? 2007-2008. Ah, quindi prima di tutto questo, visto che fino a fine praticamente 2009 non c'erano i decreti. Quindi all'inizio, diciamo, accattivavamo la clientela proponendo un risparmio sull'effettivamente consumato e quindi uno scambio sul posto in autoconsumo che si basava, quando si fa un'analisi di costi e benefici, su quello che si sconta in bolletta. Certo, certo. Poi dopo siamo passati alla tariffa, diciamo, quella onnicomprensiva. Sì. Prima alla possibilità di accedere ai certificati verdi. Sì. Perché è modificata la legge. Poi è venuta la tariffa onnicomprensiva, ma solo in determinati casi, senza poter fare lo scambio sul posto. Sì. Adesso siamo arrivati a questa nuova, diciamo, ipotesi da parte del governo, che a me sembra che non venga fatta in modo ragionato, ma sembra, diciamo, una boutade, una cosa messa lì sul piatto. Perché? Per vedere poi le persone che lavorano nel settore effettivamente cosa ne pensano e quali soluzioni potrebbero offrire a questa, diciamo, ipotesi da parte del governo. Ah, cioè lei dice oramai il regolatore pubblico, da parte di tariffa, incentivi eccetera, adotta il criterio di cambiare, dare spesso un colpo di frusta per vedere poi l'animale del circo come risponde il mercato. Il gestore dei servizi energetici è una cosa, invece questa ipotesi del governo è una cosa governativa. Sì, sì, governativa. Quello che dico io è che i tecnici del governo molto probabilmente non hanno ben chiaro il sistema di funzionamento degli incentivi e si vede anche dal decreto che stanno emanando, tant'è vero che tutte queste forme di incentivazione che esistono su tutti i tipi di fonti rinnovabili, sì, non è che vengono citate e si viene a chiarire cosa sta succedendo. Quindi ancora una volta chi cerca di fare impresa e industria e che Italia, sta in una, non solo in una a montare il pannello fotovoltaico, certo, o a mettere giù una turbina comprata in Danimarca. Non fassero l'assemblatore. Non riescono a fare un programma decente, soprattutto nei confronti dell'acquirente. Io devo dire la verità, poi lo chiederemo ai nostri ospiti. Io devo dire la verità, conoscendo un po' di gente che lavora per esempio per Saglia, ho dei dubbi che sia così. Quello che temo invece è che nella mediazione tra ministeri diversi, per ordini diversi di ragioni, sia la copertura diminuiamo perché Tremonti deve diminuire o perché l'ambiente deve difendere delle tutele, si finisca per andare in criteri generali, poi ci si metterà d'accordo, l'essenziale è capire quale sia la copertura e vedere chi vince al Consiglio dei Ministri. Questo dal mio punto di vista, se me lo chiedeste voi. Però sentiamo se avete l'impressione, voi addetti ai lavori, che veramente siamo in presenza di buchi di ignoranza anche da parte tecnici del governo. Beh, bene, mi sento. Annibale che chiama da Lodi, prego Annibale. Sì, buongiorno. No, era molto interessante quello che diceva il signore di Napoli, cioè mi sembra anche un'ipotesi, ecco. Non io sono convinto di una cosa: intanto sto costruendo una nuova casa e installerò senz'altro il fotovoltaico, indipendentemente da quella che sarà la politica di incentivi o meno. E ha già fatto la sua scelta di potenza sul conto di quanto può venirgliene in tasca? Sono ancora un po' indeciso perché sto pensando comunque di installare all'incirca 5 kW e praticamente mettere anche delle batterie e a quel punto staccarmi completamente dalla rete. Perché il sistema monopolistico che c'è in atto, lei ha detto, cioè ha messo prima il dito nella piaga di questo sistema pseudo-liberista, qui non c'è nessun liberismo, qui siamo in mano a pochi decisori che praticamente concordano dove devono andare i prezzi. E fra l'altro io, cioè, voglio dire, da liberista convinto quale sono, comunque sono convinto che questa è tutta un'operazione per evitare di affossare il discorso del nucleare, perché secondo me sta prendendo piede il fotovoltaico. Annibale, però lei, se vi piace far osservare che sfrutterà gli incentivi pure lei se mette il pannello. Installerò il fotovoltaico indipendentemente dagli incentivi. Ah, indipendentemente, vabbè. Non mi interessano. io installerò il fotovoltaico perché sono convinto che staccandomi dalla linea nel giro di qualche anno, con quelle che sono le tendenze monopolistiche. Ho capito. La sua è una scelta proprio fuori dall'incumbent e dai suoi falsi concorrenti in un mercato. E questa è una cosa fantastica. Verso l'autoproduzione, naturalmente si deve fare bene i conti, Annibale. Comunque, come vedete, le testimonianze sono varie e diverse. Sentiamo ancora Paolo che ci chiama dalla provincia di Milano. Prego, Paolo. Buongiorno. Innanzitutto vorrei fare una piccola premessa. Io nell'87 lavoravo per una società che costruiva la centrale di Montalto di Castro, quindi lavoravo nel nucleare. Mai stato contro il nucleare. No, ora mi trovo dal 2005 a essere un installatore di impianti fotovoltaici. No, io ripeto sempre, chi crede che ci sia l'alternativa tra nucleare e rinnovabili non ha molto ben chiaro di cosa stiamo parlando. Noi abbiamo bisogno di tutto. E il problema è quello di dosare alla luce del CIP 6, cioè di una scelta sbagliata degli incentivi e assimilati, di dosare, ci vuole molta attenzione, molta intelligenza, gli incentivi giusti per le rinnovabili, come verso per ogni componente, devo dire, il mix energetico. Allora, lei diceva, io lavorava lì, poi mi trovo a fare impianti fotovoltaici, quindi voglio dire anche che la filiera del fotovoltaico non è che si limita solamente al pannello, si limita a una serie numerosissima di persone. Cito per esempio chi vende il materiale elettrico, chi fornisce l'alluminio, chi il ferramenta che fornisce le viti, lo smaltimento delle coperture contenenti amianto, quindi il rifacimento del testo. Le linee di produzione della lamiera per rifacimento dei tetti stessi, quindi anche nell'edilizia, i progettisti che sono entrati, chiarissimo. E per concludere l'IVA che i privati versano allo Stato cash immediatamente al termine dell'impianto. Quindi quando viene valutato tutto il discorso degli incentivi bisogna anche scalare una parte, oltretutto le imprese che hanno lavorato sul fotovoltaico e hanno generato degli utili pagheranno delle tasse, quindi cioè sì, l'incentivo giustamente deve essere qualcosa che servirà a portare la tecnologia verso la grid parity, cioè il costo dell'energia tramite fotovoltaico pari alle altre fonti di energia rinnovabile. Certo, non deve essere un regalo a chi vuole fare il fotovoltaico. Poi che si trovano dei sistemi giusti di incentivazione, ma noi non abbiamo fonti, non abbiamo l'uranio, non abbiamo il petrolio, non abbiamo, o perlomeno che ci soddisfi, ma li dobbiamo importare dall'estero. Il sole ce l'abbiamo, perlomeno cerchiamo di usarlo al meglio. La domanda la domanda è tra addetti ai lavori, ma se noi insomma ci mettiamo ad aspettare la grid parity per la conversione fotovoltaica, non rischiamo di far male a tutte le rinnovabili indistintamente e alla efficienza energetica? Questa è proprio una delle questioni a cui dare risposta. Si è aggiunto l'amministratore delegato di Solsonica, quindi un altro signor addetto ai lavori, Paolo Mutti. Mutti, del decreto, della vicenda del decreto, ma anche di queste ultime cose ha sentito, di cui stiamo parlando, che dice? Buongiorno, io dico la seguente cosa, innanzitutto la generalizzazione non aiuta a comprendere, il fotovoltaico rispetto ad altre rinnovabili ha caratteristiche molto diverse, perché è probabilmente l'unica che può essere diffusa in maniera ampia, quindi sui tetti delle case, ed è l'unica probabilmente che può essere posta direttamente sul punto di utilizzo. Questo significa che il fotovoltaico è a valle dei costi di distribuzione, mediamente fatto 100 la spesa elettrica, 10 viene dissipata sulla rete o nei servizi ausiliari. Il fotovoltaico ha quindi la possibilità di insistere su una fascia molto ampia di popolazione, quindi da questo punto di vista i vari decreti dovrebbero cercare di cogliere innanzitutto quelle che sono le caratteristiche salienti delle singole tecnologie, senza in un certo senso fare dei gran mischioni, fare le rinnovabili o soprattutto le grandi contrapposizioni. Noi abbiamo un problema fondamentale, noi abbiamo una bolletta elettrica che è molto salata, Draghi ci ha fatto notare che un incremento del 20% sul costo del petrolio corrisponderà a una perdita di mezzo punto di PIL nei prossimi anni, e quindi questo è il nostro problema. Quindi francamente su questo non è che ci siano tantissime alternative possibili. Una è senza dubbio il nucleare. Io sono, nonostante sia operativo nel fotovoltaico, sono un ingegnere nucleare. e quindi diciamo sono assolutamente pronto e consapevoli al dibattito e assolutamente allineato con la sua opinione che le due forme di energia nucleare e rinnovabili devono coesistere, perché il problema non è tanto chi vince, ma chi perde è l'Italia se non riesce a svincolarsi dai combustibili fossili. Quindi io penso che relativamente al decreto quello che sta succedendo è il tipico atteggiamento da psicodramma italiano. L'energia va pianificata, l'energia non è una bandiera politica. Facciamo già questo errore nell'87 col referendum, siamo pronti a fare altri errori storici in cui per emozione vengono posti tetti, non tetti. Prendiamo degli esempi, la Germania ha un business fotovoltaico nonostante abbia il 40% meno di sole. Se si va a vedere come è fatto il fotovoltaico in Germania, il 40% è con sistemi sotto i 10 kW, cioè sulle case. Sì. Allora, se funziona in Germania, dico, potrebbe funzionare anche in Italia, che è sicuramente più remunerativo. Grid parity, non grid parity, io ho sentito e leggo interpretazioni le più varie, anche lì se ci fosse in un certo senso una concertazione fra i vari operatori, ma a livello tecnico prima che politico, per riuscire a condensare una pianificazione energetica che non parta dall'umore e dal fatto che uno possa sbandierare il nucleare di destra, è sempre stato così, le rinnovabili sono di sinistra, ma che invece vada ai problemi, questo sarebbe molto meglio. Questo cosa corrisponde rispetto al decreto? Che anche qua le parole che ho sentito sono tutte sagge, 4-5 cose. Uno, stabilità, è inutile iniziare a fare un decreto, poi iniziare a dire c'è il tetto, poi tolgo il tetto, poi parto a giugno, poi non so quanto fotovoltaico c'è. Si faccia un decreto tale per cui le singole fonti energetiche siano adottate per le loro peculiarità. Qual è l'aspetto positivo, ad esempio, del fotovoltaico? Uno, posso diffonderla e quindi posso avere anche dei sistemi che sono sufficientemente efficienti nonostante abbiano una taglia di qualche kilowatt. Due, questi qua funzionano nel picco di consumo dell'energia, cioè il fotovoltaico ha bisogno di una rete o di un accumulatore, è difficile vedere un pannello operativo di notte. Però il fotovoltaico funziona di giorno quando c'è il picco di consumo. Questo è un plus, perché a differenza di altre fonti non programmabili, non so, come l'eolico, che in un certo senso girano le pale a seconda dei giorni, il fotovoltaico mediamente le ore di sole non è che uno sbaglia tanto nella programmazione. La devo fermare perché abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale, siamo già in ritardo. Eccoci, facciamo un giro finale di un minuto e mezzo a testa tra i nostri ospiti. Ricominciamo da Stagnaro. Ma com'è che è proprio veramente la fame di un paese se il settore delle energie rinnovabili, che dovrebbe essere classicamente capital intensive, non labor intensive, diventa il settore in cui sembra che si stia addensando il più della crescita, dell'occupazione, eccetera eccetera? È un fenomeno in realtà, a essere cattivi, più tecnologico e di balzo in avanti, oppure è un fenomeno più commerciale e distributivo? Io credo che sia un fenomeno di marketing. Se noi incentiviamo le rinnovabili è per conseguire un obiettivo di politica ambientale che è ridurre le emissioni di CO2. Questo a prescindere dalle ricadute occupazionali, fiscali e quant'altro, perché ci sono un sacco di cose che hanno ricadute positive dal punto di vista occupazionale, fiscale, eccetera, che non ricevono incentivi e non li devono ricevere. E su questo, condurante sul Sole di oggi abbiamo scritto che il problema del decreto in discussione è che viola, come dire, qualunque principio di certezza del diritto, e su questo andiamo d'accordo e credo di trovarmi d'accordo anche con Longo. Dove finisco di essere d'accordo con quanto diceva Longo è sull'uso, come dire, un po' ambiguo del termine liberismo. Nel momento in cui una parte importante, nel caso del fotovoltaico, una parte preponderante della remunerazione arriva dall'incentivo, cioè dalle risorse della collettività, io credo che un di più di attenzione da parte della collettività sia necessaria, per esempio attraverso il ricorso a sistemi di aste o altri meccanismi che possono consentire di controllare quello che stiamo facendo e come stiamo spendendo i soldi dei contribuenti. Ultimo punto, continuo a non vedere il motivo per cui noi sussidiamo in maniera diversa le diverse fonti rinnovabili quando un kilowattora generato dall'eolico come un kilowattora generato col fotovoltaico, come un kilowattora generato con l'idro, con le biomasse, quello che volete, ha esattamente lo stesso beneficio ambientale. Questo mi fa pensare che dietro non ci sia un obiettivo di politica ambientale, ma ci sia qualcos'altro, e a questo qualcos'altro da liberista sono fortemente contrario. Longo, c'è chi continua a dirmi che insomma le aziende sono anche penalizzate. Questo è un lettore e un ascoltatore che ci chiama e ci manda un messaggio molto accorato. Noi siamo molto penalizzati dalla presenza di grandi investitori finanziari, fondi pensione e altro esteri, i quali comprano in Italia soltanto terreni ma portano poi materiale e manodopera dalla Germania, dalla Spagna. Vi sono impianti come quello di Badia Polesine, 120 megawatt, un mostro, il fotovoltaico, che tolgono risorse a tutta la filiera. Attenzione, chi poi alza allarmi non è che sbagli di troppo. Lei che dice? Ma dico che di sicuro lo sviluppo del fotovoltaico in questi ultimi anni è stato uno sviluppo decisamente turbolento, e che quindi diciamo una presenza di una regolazione più attenta sarebbe stata molto utile, non solo a livello economico ma a livello autorizzativo, nel senso che è chiaro che lo sviluppo del fotovoltaico sui terreni agricoli è stato anche causato da una poca chiarezza sugli strumenti autorizzativi. Tornando al discorso liberismo, siamo d'accordo che quello che diceva lei, cioè che parlare di liberismo in un sistema amministrato è abbastanza difficile, ma è abbastanza vero che purtroppo le fonti rinnovabili non sono tra loro competitive, nel senso non è possibile mettere in competizione l'eolico con il fotovoltaico, con le biomasse, con l'idro. Ogni fonte ha i propri costi produzione che sono connaturati con la tecnologia e con l'avanzamento della tecnologia. Per questo che probabilmente l'errore iniziale fu fatto quando col certificato verde nel decreto Bersani si disse facciamo competere tra loro le fonti rinnovabili. L'eolico non può competere con il fotovoltaico, come giustamente diceva Mutti, ogni fonte rinnovabile ha un suo campo d'applicazione. Allora a questo punto bisognerà ragionare con una logica di vera pianificazione energetica, che non è fare i piani quinquennali, è capire come vogliamo produrre energia in Italia per risolvere tutti i problemi di tipo anche di politica economica e di strategia. Allora, a questo punto si tratterà di decidere, cosa che purtroppo non è stato mai fatto, e non tanto per l'ignoranza, come si sentiva prima, dei tecnici dei ministeri, ma per il sovrapporsi di buone scelte a segnali politici improvvisati che hanno praticamente modificato con continuità e con irregolarità il sistema di incentivazione. A questo punto fare una scelta e dire noi in Italia vogliamo raggiungere questi obiettivi produzione di rinnovabili utilizzando l'eolico in questo modo, vogliamo fare l'offshore, non lo vogliamo fare grandi impianti, decidiamolo. Il fotovoltaico vogliamo utilizzarlo integrato, sono d'accordo, il fotovoltaico si presta molto bene, molto meglio essere utilizzato, distribuito, che non concentrato per far potenza. Ecco, questa pianificazione, che è una pianificazione di politica energetica... Mi lasci dire in conclusione, nel ringraziare lei, Stagnaro e Mutti, che per fare una pianificazione, cioè uno dei motivi per cui alla fine queste scelte non è stato più possibile farle, e anche perché ci siamo dati questo dannato titolo quinto della Costituzione del 2001, che attribuendo alle regioni competenza concorrente sull'energia come sulle TLC e sulle grandi opere infrastrutturali trasportistiche, senza una clausola di supremazia nazionale, fa sì che noi su questo abbiamo ogni regione che fa come cavolo gli pare, e quindi noi la scelta non sono una scelta, sono 20 scelte. Questo è un altro dei problemi che ci caratterizzano. Comunque, grazie ai nostri ospiti, peccato perché senza Saglia non abbiamo avuto la voce del governo, quindi è stata una puntata che come sempre pone domande e non riesce a dare le risposte, ma almeno le domande finché ci sono le farò. Va bene, appuntamento domani, grazie, Lina Giornale Radio.